io cosa son, cosa faccio? Or de fuoco ora sono di ghiaccio, ogni donna cambiar di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Solo ai loni d'amore del letto, mi si turba il sol del petto, non ho chi moda, e se